con Alberto Grilli di Teatro Due Mondi, che cura la direzione artistica di Mauer Springer, Saltatori di Muri, Festival Europeo del Teatro di Strada a Faenza dal 3 al 13 settembre 2019. Alberto, ben trovato. Grazie. Ci racconti un po'? Sì, dunque il festival è il momento finale di un progetto europeo, appunto, che si intitola Mauer Springer, un progetto di Europa creativa, quindi finanziato dalla Comunità Europea, che abbiamo vinto l'anno scorso e che abbiamo portato avanti in questi mesi con dei partner in Spagna, in Francia, in Germania, in Serbia. È il momento conclusivo dove un po' tutto il lavoro fatto in questi mesi viene mostrato al pubblico di Faenza. Siamo partiti da tre cose. Una, pensare ancora a un teatro di strada che porti contenuti al pubblico, un teatro non solo di intrattenimento. Poi il lavoro con le comunità, tutte le formazioni ospiti in un qualche modo lavorano con i cittadini, direttamente e indirettamente dentro le produzioni, quindi con quelli che noi chiamiamo i non attori e le persone della comunità che siano residenti o immigrati o rifugiati, come nel nostro caso. E la terza cosa importante per noi è avere un momento di riflessione attraverso l'arte e la cultura su il momento che vive la nostra Europa, sulla difficoltà di pensarci come un insieme di nazioni aperte al dialogo, ma invece siamo un po' preoccupati di questa ondata di populismo che riempie le piazze e che alza i muri. Come si strutturerà il festival? Quanti sono gli eventi? Ma gli eventi sono circa 16. Noi abbiamo lavorato anche nella composizione del festival e negli orari, negli spettacoli non ce ne sono più di due al giorno, pensando un po' appunto alla vita della nostra comunità, quindi della nostra città e del nostro territorio, perché il festival è anche nei piccoli comuni che stanno attorno a Faenza. Quindi abbiamo scelto degli orari in cui pensiamo che la piazza sia più piena del solito e quindi in alcuni casi alle 18, alle 19, non tutti sono quegli spettacoli serali perché siamo andati a cercare un po' il ritmo delle città e dei paesi e anche non più di due spettacoli al giorno, non ci piacciono molto, non troppo i festival, troppo supermercati dove uno spettatore vede uno spettacolo dietro l'altro, ma pensiamo che ci voglia anche un po' di tempo di stacco, di riflessione e che non dobbiamo bombardare troppo il pubblico. Le compagnie, gli spettacoli, su quali criteri sono stati selezionati? Gli spettacoli sono fatti tutti dai partner del nostro progetto, quindi più che gli spettacoli nella fase della redazione del progetto europeo abbiamo scelto dei partner, una compagnia che lavora a Bilbao e nei Paesi Baschi, che sappiamo e conoscevamo come un gruppo impegnato sul lavoro in strada anche politicamente, diciamo. Poi i due gruppi della Francia sono delle formazioni che storicamente lavorano in strada, così come il gruppo in Germania e a Belgrado. Quindi questi gruppi che abbiamo scelto, che conoscevamo già anche prima, però le nostre relazioni costruite negli anni, hanno in questi mesi prodotto uno spettacolo nuovo sul tema dei muri. Quindi gli spettacoli sono tutti delle prime nazionali, anche il nostro che abbiamo fatto come Crepe nei muri, è uno spettacolo che lavora su questo tema. Quindi tutte le cose che si vedranno qua, compresi i risultati dei laboratori, sono tutte declinazioni, evidentemente ogni artista lavora a modo suo e con la propria poetica, ma tutti abbiamo ragionato sul tema dell'Europa e della mancanza di apertura dell'Europa. Ci parli anche un po' dell'esperienza Teatro Due Mondi? Noi siamo un gruppo che ha 40 anni di vita, qui abbiamo festeggiato quest'anno, un gruppo che lavora nella forma, diciamo, più vicina a questa definizione, cioè siamo un gruppo di artisti che lavora assieme sempre da anni e che condivide tutto, sia la creazione artistica che il momento organizzativo. In questi anni abbiamo prodotto spettacoli per teatri al chiuso, per ragazzi, per tutti i tipi di pubblici, per tutti i tipi di spazi, quindi anche molto teatro di strada, teatro per gli spazi aperti, e abbiamo girato tutto il mondo, diciamo. Quello che ci interessa è che gli spettacoli portino, come dicevo prima, oltre che emozioni anche pensiero. Siamo conosciuti anche come un teatro politico, la cosa non mi dispiace, abbiamo sempre dei temi che portiamo al pubblico che sono soprattutto temi di interesse collettivo, quindi questioni che riguardano il lavoro, questioni che riguardano i diritti umani, le differenze, le questioni di genere, quindi in qualche modo ci battiamo per le cose in cui crediamo e il nostro sguardo sul mondo lo traduciamo negli spettacoli. E facciamo da anni anche un lavoro sul territorio, abbiamo un teatro qui a Faenza, curiamo una piccola stagione, anche quella gratuita per il pubblico, cerchiamo di andare incontro a fasce di pubblico che non frequentano la cultura, anche fasce sociali deboli. Abbiamo da 10 anni un lavoro continuo con rifugiati e richiedenti asilo, quindi un po' ci muoviamo in tante direzioni. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Sì, c'è un sito Mauer Springer. Mauer Springer significa saltatori di muri, mauerspringer.eu. Poi c'è anche il nostro sito teatrodueMondi.it e ci sono di conseguenza anche pagine sui social, su Instagram e su Facebook. Non è difficile trovare il programma, ci sono appuntamenti interessanti, sicuramente spettacoli godibili e divertenti, grotteschi, come sono spesso gli spettacoli di strada, ma tutti accomunati da una voglia anche di portare, oltre che a emozioni, anche un po' di pensiero, di riflessioni al pubblico. Sono tutti gratuiti, quindi sono di libero accesso per tutti. E allora ricordiamo Mauer Springer, Saltatori di Muri, Festival Europeo del Teatro di Strada, Faenza dal 3 al 13 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Alberto Grilli del Teatro Due Mondi, che cura la direzione artistica. Alberto, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te e agli ascoltatori. Un abbraccio a tutti.